Cinzia Banelli, Diana Blefari Melazzi, Simone Boccaccini, Paolo Broccatelli, Bruno Di Giovannangelo, Laura Proietti, Federica Saraceni, a pene comprese tra i 5 e i 21 anni di reclusione. Il 14 aprile 2009 a Cinzia Banelli, iscritta nel programma di protezione dei pentiti, sono stati concessi gli arresti domiciliari. Professor Pietro Ichino, qual è, se c'è, l'eredità di Massimo D'Antona nella riforma del lavoro approvata da Renzi? Direi che possiamo individuare l'eredità di Massimo D'Antona in quello che lui scrisse in uno dei suoi ultimi saggi, se non proprio l'ultimo, in cui diceva che il diritto del lavoro deve passare da un diritto di proprietà sul lavoro, lui parlò proprio di job property in quell'occasione, a un diritto del lavoratore a essere assistito, appoggiato, sostenuto nel mercato del lavoro, sostenuto nella disponibilità di tante opportunità di lavoro, ma dove la garanzia sta nella gamma di opportunità e non, diceva D'Antona, necessariamente nel punto d'arrivo. Professor Ichino, ma cosa D'Antona tentava di fare su cui poi è stato bloccato? Parliamo di un qualcosa di specifico, quindi abbandoniamo il discorso generale sulla evoluzione del diritto del lavoro. Massimo D'Antona era stato chiamato proprio nell'ultimo periodo della sua vita al ruolo di membro del consiglio di amministrazione dell'ENAV, cioè dell'ente che gestisce i controllori di volo, diciamo gli uomini radar, che era un ente che all'epoca faceva registrare mediamente 50 scioperi ogni anno. Era una anomalia. E D'Antona cosa cercava di fare? D'Antona era stato chiamato lì per cercare di riportare ragionevolezza nel sistema delle relazioni industriali e quindi riportare alla ragione l'uso dell'esercizio del diritto di sciopero in quel settore. Si era rimboccato le maniche, si era impegnato a fondo per dare un senso accettabile al diritto di sciopero, che in quel settore il diritto di sciopero aveva perso. E dopodiché in quella sede poi è stato tratto anche molto di quello che poi è stato utilizzato l'anno dopo della sua morte, nel 2000, per aggiornare e perfezionare la legge sullo sciopero nei servizi pubblici, che è una delle leggi migliori nello scenario internazionale in questo campo. Lì sicuramente nell'aggiornamento del 2000 sono confluite molte delle idee su cui stava lavorando Massimo D'Antona. Professore Ichino, lei lo ha conosciuto Massimo D'Antona? Beh, molto bene, eravamo colleghi e spesso ci siamo incontrati per la ragione dell'insegnamento del diritto del lavoro. Ma qual era la qualità che apprezzava di più di lui come uomo? La mitezza, la dolcezza. Era una persona straordinariamente fine, attenta a non ferire mai, non aggressiva anche nel dissenso. E come studioso? Come studioso, una grande finezza e soprattutto questa libertà di pensiero che gli consentiva di non aggrapparsi con le unghie e con i denti a difendere l'esistente, come se la forma assunta dal diritto del lavoro con lo statuto dei lavoratori fosse il meglio che si potesse avere, e invece vederne anche i difetti, vederne la necessaria evoluzione. Ecco, professore, ma oggi D'Antona soffrirebbe per il ruolo che i sindacati hanno con Renzi? Sicuramente ne soffrirebbe, ma credo che non perché? Possa non soffrirne chiunque. Ma perché? Perché oggi si assiste a un l'assunzione anche da parte di sindacati confederali come la CGIL di posizioni che negli anni 70-80, che pure erano anni duri, anni di piombo, un sindacato confederale non avrebbe mai assunto, quando il segretario della CGIL Scuola minacciò lo sciopero nei giorni degli scrutini e venne cacciato dalla CGIL Lama, impedì che questo avvenisse perché si riteneva che il sindacato confederale dovesse avere dovesse farsi carico dell'interesse di tutti. Intendiamoci, il sindacato quando fa l'interesse dei suoi associati e dei lavoratori fa il suo mestiere, ma il sindacalismo confederale aveva l'ambizione invece a assumersi il compito di promuovere l'interesse generale e questo si è perso, e paradossalmente si è perso proprio da un sindacato che oggi mira a scendere in campo come soggetto politico. È veramente una contraddizione, un paradosso.